Ho roba che scotta come pasta asciutta a mitra. Via a casa Balenciaga e tuta. Chiamo il presidente, sto a casa bianca. Sto in casa blanca fumando gruta. Sembra Cortina Grenoble. Sto sciando, sembro in montagna. Se parli di soldi allora parla Wayne. Coca e Keta nei miei Calvin Klein. Non fotto la tua tipa che finge il suicidio. Un pacco sembra un bimbo sul passeggino. Sul cuoio di zenzero ho visto il futuro. Frullati concentrati nel passino. Ho l'erba più verde, la carca al tuo vicino. Nella padella zenzero e cotechino. Se la porta cena fuori anche se vuole un panino. Noteria che tempura ti passiamo nel ghiaccio. Una granita al collo e sai che non la sciolgo. Culo questa roba mi fa stare su un altro mondo. Tua madre è una puttana, tua madre è una puttana. Tuo padre è un infame, tuo padre è un infame. D'Arganza è una famiglia, preghiamo per il nostro pane. Tua madre è una puttana, tua madre è una puttana. Tuo padre è un infame, tuo padre è un infame. D'Arganza è una famiglia, preghiamo per il nostro pane. Preghiamo per il nostro pane. Tua madre è una puttana, tua madre è una puttana. Tuo padre è un infame, tuo padre è un infame. D'Arganza